Soundcheck. Il suono della musica di Gigi Telesforo. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo, di nuovo in contatto con il soundcheck, con la prova del suono, oggi numero 95 qui su Radio 24, che dedichiamo all'arte della composizione, proprio l'arte che ha per oggetto la creazione di opere musicali. Un'arte che nella tradizione europea colta presupponeva da parte del compositore lo studio di numerose discipline. Il compositore doveva conoscere l'armonia, l'arte del contrappunto, l'orchestrazione, nonché la conoscenza proprio delle forme e delle strutture musicali. Le composizioni musicali sono infatti proprio frutto dell'organizzazione del linguaggio musicale con lo scopo di realizzare opere di vario genere. Esistono vari approcci alla composizione, partendo proprio dal fischiettare. Ecco, ci sono stati dei compositori che, pur non conoscendo la musica, ma con un grandissimo spiccato senso della melodia, soltanto fischiettando le loro idee musicali, hanno scritto delle opere universali. Però alla composizione musicale tuttavia appartengono dei caratteri universali che sono riscontrabili nella scelta del sistema musicale all'interno del quale comporre, e questo determinerà il carattere ritmico, melodico ed armonico dell'opera, scegliendo però una forma, una struttura all'interno della quale comporre. Che cosa significa? Significa che nella storia della musica occidentale naturalmente si percepisce una costante trasformazione, c'è un'evoluzione che ci porta ad assistere alla nascita di forme all'interno delle quali nel corso dei secoli il linguaggio ha pienamente partecipato all'emancipazione dell'arte della composizione. Ma veniamo a noi, veniamo alla musica che ci piace, quella di stampo tipicamente afroamericano che tanto battiamo qui al soundcheck di Radio 24. Perché negli Stati Uniti proprio la nascita, la diffusione della cultura afroamericana ha preparato le nuove generazioni di compositori a una rinnovata libertà linguistica che ha poi caratterizzato molti lavori musicali dai primi del Novecento ad oggi. Così ogni composizione musicale appartiene ed aiuta a definire uno stile a sua volta legato all'epoca storica nella quale il componimento è stato realizzato. Per scrivere musica certamente ci vuole l'utilizzo dell'armonia, certamente ci vuole ritmo, ci vuole un bel senso melodico, e questi sono tutti gli elementi che sono da sempre presenti in tutte le culture musicali del mondo. Ma per gli afroamericani c'è una forma e una struttura dalla quale non si può prescindere, perché per scrivere musica devi conoscere, amare, metabolizzare e diffondere il linguaggio, la forma e la struttura del blues. Ma facciamo una breve pausa e andiamo allora subito ad ascoltare, a apprezzare il suono tipico del blues con due forme e strutture diverse, quella proposta da Cassandra Wilson e poi una composizione originale della giovanissima, bravissima Valerie June, nuova star del blues di oggi. Il brano si intitola Working Woman Blues. Qui al soundcheck di Radio 24, Cassandra Wilson e Valerie June. You may be rich, you may be poor. But when the law gets ready, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be down, no place to go. I'm mad at the way she loves me, and I'm mad at the way she cares. I'm mad at the way she touched me. E questo è un blues contemporaneo scritto da Anthony Hamilton, intitolato Mad, che ritroverete in un album di successo chiamato Back to Love, album con il quale Anthony Hamilton quest'anno si è aggiudicato una bella nomination, purtroppo per lui soltanto una nomination, però avere una nomination ai Grammy Award in questo momento è importantissimo per un artista non più emergente, ma che comunque non è affermato come una pop star. Anthony Hamilton ci dimostra così che mantenendo il suo rapporto con la forma e la struttura del blues si può comunque continuare a essere contemporanei, a essere attualissimi. Il blues non passa mai di moda, anche perché proprio molti degli stili della musica popolare contemporanea derivano, sono stati fortemente influenzati dal blues. Sebbene il ragtime e lo spiritual non abbiano la stessa origine del blues, questi tre stili musicali afroamericani si sono fortemente influenzati tra loro e quindi l'evoluzione li ha portati sinergicamente a creare, a generare dei nuovi stili, dal jazz in tutta la sua evoluzione stilistica fino al bluegrass, rhythm blues, soul music, rock and roll, hard rock, hip hop e anche la musica pop in genere. Se pensiamo ai Beatles, che hanno scritto le loro canzoni da musicisti appassionati di rhythm blues e soul music, partendo sempre dalla struttura portante, quella del blues, fondamentale per tutti i compositori contemporanei. Un esempio ancora ci viene dato da una band, marito e moglie, che sono Fatin Dantzler e Aja Graydon, conosciuti come Kindred Family Soul, che ripropongono un classico dei War intitolato Spread the Word, dove addirittura la forma e la struttura del blues non viene assolutamente definita con la ciclicità tipica delle 12 battute e con le progressioni armoniche, ma basta un solo accordo, una voce soul e tantissimo groove per fare dell'ottima musica. Kindred the Family Soul al soundcheck di Radio 24. Oggi al Soundcheck di Radio 24 stiamo cercando in qualche modo di raccontare l'arte complessa e magica della composizione. Abbiamo già detto che i compositori, quelli classici, quelli di un tempo, dovevano conoscere l'arte dell'armonia, del contrappunto, dell'orchestrazione, conoscere un po' tutti gli strumenti per poter creare le loro sinfonie e le loro opere. I musicisti contemporanei comunque devono conoscere la musica, mi sembra un elemento importante, anche se alcuni scrivono melodie fischiettando, però per un musicista è fondamentale avere il senso del groove, il senso dello swing, quindi il senso del ritmo, il senso della forma e della struttura che abbiamo identificato nel senso del blues, senso armonico e melodico. E molto spesso nei grandi successi di rhythm blues contemporaneo la parte melodica si riduce a una piccola porzione, una piccola frase musicale che in gergo viene definita riff. Esattamente che cos'è il riff? Una frase musicale, una successione di note con una propria identità espressiva che si ripete frequentemente all'interno di una composizione e che viene utilizzato di solito come accompagnamento, ma che può anche costituire il nucleo di un brano musicale, la chiave di volta. Il riff è quella piccola frase musicale che ci entra proprio nel cervello e che canticchiamo tranquillamente sotto la doccia e che poi genera quindi il successo di un'opera e di una composizione contemporanea. Il riff è molto usato, dicevamo, nell'R&B, anche dai disc jockey e soprattutto dai rapper. Un esempio ce lo danno i Roots con un brano intitolato Tip the Scale, bellissimo, grande groove, c'è anche il senso del blues sicuramente dentro e il rap si alterna poi alla frase musicale, al riff che viene ripetuto e ci entra anche nel cuore. The Roots al soundcheck di Radio 24. I'm a sad suicide. Heads and tails. Some think life is a living hell. Some live life just living well. I live life trying to tip the scale my way. My way. E chiudiamo questo appuntamento del nostro soundcheck, la prova del suono di Radio 24, con la voce di una piccola star emergente dell'R&B americano, Queen Emily, con una composizione di Bill Withers intitolata Use Me. Leggendario compositore Bill Withers, che molto spesso nella sua musica ha utilizzato i riff, è anche lui una chiave di volta, uno stratagemma per rendere la sua musica assolutamente accattivante. Qui il riff non è nell'aspetto melodico, ma proprio nella linea di basso che caratterizza fortemente questa composizione. Grazie a tutti voi, vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica se avete dubbi, incertezze, perplessità, ma anche se volete chiedere informazioni sul nostro replay, è sempre la stessa, la mail soundcheck@radio24.it. Noi ci risentiamo lunedì, buon pomeriggio e buona musica da Gegè Telesforo. My friend.